quello che mi fa impazzire è che il giornale, invece, come sarebbe stato corretto invece di mettere la notizia del ricatto a Palazzo Chigi senza nomi e cognomi, mi sbatte in prima pagina manipolando la notizia. Il video non c'è, vede, qualcuno lo ha visto, è una bufala, una porcheria, una calunnia. Chiederò i danni, girerò l'assegno di Feltri ai bambini bisognosi degli istituti di Napoli. Questa Alessandra Mussolini sul giornale è l'apertura di oggi, il brutto guaio della Mussolini. C'è da dire che oggi il giornale secondo me fa un po' retromarcia, c'è un lungo editoriale di Vittorio Feltri, ma anche l'articolo all'interno dice: il tentativo di ricatto c'è stato, del video per ora invece nessuna traccia, la procura lo sta cercando anche se dubita della sua esistenza. Inizia così l'articolo. Intanto, come dire, la frittata è fatta, o meglio, due personaggi pubblici sono stati messi in prima pagina con l'accusa di un video. C'è, non c'è, intanto la notizia c'è. E l'apertura del Quotidiano Nazionale, c'è Alessandra Mussolini in prima pagina, video fango, questo è il titolo di apertura. Vi lascio con questo. Ricordo il sondaggio, i minareti in Svizzera hanno fatto un referendum e hanno detto non se ne potrà costruire più. Che ne pensate? Dovrebbe farlo anche l'Italia. Votate su radio24.it. Eccoci alle 8:18 minuti, tra qualche secondo siamo tornati in diretta con 24 Mattino, pronti per la pagina di economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno a tutti. Smettila di indugiare sui monitor televisivi di Sky TG24. Sta passando lì. Messi che ha vinto il pallone d'oro. Sì, infatti. Scusa, sì, proprio Messi tu guardavi. Un po' di calcio. Belle conduttrici, televisive, perché quelle radiofoniche ormai sono tutte da buttare. Buttiamole come il vetro. Vabbè, davvero. Buongiorno a Deborah Rosciani. Allora, di che cosa parliamo oggi? Alessandro, lo sai che le bottiglie di vetro possono essere riempite per più di 50 volte, il che equivale ad una vita media di 6 anni, mentre i contenitori di plastica possono essere riusati fino a 14 volte. Ovviamente queste sono buone abitudini che ci permettono di dare particolare attenzione all'ambiente, ma anche un piccolo ritorno economico, perché ogni qualvolta si riportano i vuoti da un qualsiasi rivenditore di bevande, si possono riottenere dagli 8 centesimi ai 25 di rimborso. E poi ci sono i supermercati che hanno delle macchine che scannerizzano il vuoto e stampano uno scontrino da consegnare alla cassa, ai bar o ai venditori di bevande. Per le lattine e alcuni contenitori vale invece la cauzione sul vuoto a perdere. Allora, abbiamo fatto tutto questo preambolo perché oggi a Roma, alla Camera dei Deputati, viene presentata una proposta di legge che nasce da una campagna che ha ormai 2 anni di vita, si chiama Vetro Indietro. L'obiettivo è quello di promuovere e stimolare il ritorno del vuoto a rendere. Una bella pensata che in realtà è qualcosa di molto concreto, l'ha avuta 2 anni fa Giuseppe Cuzziol, che è presidente del comitato Vetro Indietro e presidente anche di Italgrob, che adesso spiegheremo ai nostri ascoltatori che cos'è, che cosa fa. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Allora, oggi lei si è dovuto fare questo giro a Roma perché lei non è esattamente romano. Beh, direi di no, perché sono veneto e in questo caso proprio di Conegliano Veneto. Perfetto, ecco, tra l'altro non è un caso che la sua esperienza nasce lì, questo è un comune per queste abitudini particolarmente virtuoso. Allora, come nasce questa sua campagna, Presidente? 2 anni di vita di Vetro Indietro, come le è venuta in mente? Guardandosi intorno ha capito insomma che di tutti questi rifiuti non ne potevamo più e si poteva cominciare dal vetro, no? Beh, direi di sì, innanzitutto mi sono messo come consumatore, la prima cosa che ho fatto, per cui ci ho pensato, ho detto: ma perché quando andiamo in un pubblico esercizio andiamo a bere qualsiasi tipo di bevanda e ci viene data sfusa sul bicchiere, per cui di conseguenza il contenitore non vedo perché poi debba essere buttato, può essere tranquillamente recuperato, e in questo caso recuperato da chi? Da noi, che siamo dei distributori, per cui io rappresento come Italgrob il sindacato della distribuzione in Italia. Sono circa 1800 imprese che lavorano su questo campo e di conseguenza dico, proprio con questo tipo di servizio andare a riutilizzare il vetro che altrimenti andrebbe buttato, come ahimè tuttora ancora viene fatto. Insomma. Cosa avete fatto in questi 2 anni da quando la vostra campagna è partita? Che risultati soprattutto avete ottenuto, Presidente? Beh, io sono partito comunque dalla filiera, per cui per filiera vuol dire l'industria, cioè chi produce, la distribuzione, cioè noi, FIPE, che vuol dire sindacato in questo caso dei pubblici esercizi, e non ultimo tutta la parte ambientale, per cui ambientalistica, cioè, e questo è stato secondo me la mossa giusta e corretta per far sì che tutti coinvolti abbiamo portato a termine almeno questo primo step di questo progetto, che prevede in questo caso il riutilizzo di tutti i contenitori del vetro tramite appunto il nostro servizio, dando anche delle incentivazioni, cioè incentivando in questo caso da un lato l'industria nella rivisitazione del processo produttivo, ovviamente all'interno degli stabilimenti, cioè nel riprodurre dei prodotti che sono poi inseriti sul vetro a rendere in questo caso, per noi stessi per fidelizzare il nostro cliente, il pubblico esercizio per dimostrare che effettivamente c'è sensibilità all'ambiente, non solo, perché c'è anche la possibilità di sgravare il pubblico esercizio da una parte di TARSU, che è la tassa sui rifiuti in questo caso, e non ultimo sensibilizzare il consumatore. Questo è un po' tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. Adesso capisco anche perché siete dovuti arrivare, come dire, a Roma, e cioè a coinvolgere anche il mondo politico per poter fare in modo che la campagna diventasse anche una proposta di legge, perché naturalmente per poter partire tutto quanto ha bisogno anche di un sistema di incentivi che in qualche maniera, no, invogli i pubblici esercizi a questo percorso. In molti ristoranti però, Presidente, lo dicevamo, tutto questo si fa in molti bar. Io ho per esempio il caso di una carissima amica che abita in un piccolissimo paese in provincia di Lodi e vedo che già da tempo lei utilizza il sistema dell'acqua portata a casa, in sostanza. Quindi volete un po' istituzionalizzare tutto questo percorso? Beh, direi di sì, questo è il nostro obiettivo. Oggi che presentiamo proprio alla Camera questa nostra proposta di legge, prevede questo, cioè prevede soprattutto la consapevolezza che si può fare, perché il fatto di andare ad unire il business, come in questo caso, come io lo definisco, in qualcosa che sia anche utile socialmente, non sempre è compreso, per cui in questo caso invece dico possiamo farlo proprio perché effettivamente siamo una filiera, se non fosse così difficilmente saremmo in grado di far niente in questo caso. Per Presidente, cui, sì. No, volevo Prego. Sapere se ci poteva raccontare l'esperienza anche di Conegliano Veneto. Sì, su Conegliano Fano, che in questo caso è il consorzio di recupero, ha accettato subito questo tipo di proposta, poi ci vedremo effettivamente fra poco alla Camera, e ha messo a disposizione dei contenitori dedicati proprio per il pubblico esercizio, per cui una cosa che va oltre alle cose solite e normali, perché ha speso del suo, per cui in questo caso vuol dire che c'è molta determinazione su questo progetto. E abbiamo capito che il vetro effettivamente per tutte quelle che sono le bevande può essere assolutamente riutilizzato, lei giustamente in apertura ha detto almeno 50 volte, ci sono studi, noi abbiamo fatto fare il nostro studio scientifico dalla Foscari, dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dove che ci ha supportato proprio su questa sensazione che avevamo da tempo e di conseguenza abbiamo deciso in questo caso di procedere in tal senso, per cui Lega Ambiente, che fa parte del comitato, perché il comitato del vetro indietro in questo caso va a conglobare sia Italgrob, sia FIPE, sia Lega Ambiente che Savno e tre grosse industrie alimentari del beverage, che guarda caso sono tra le altre cose anche multinazionali, ogni tanto parliamo sempre o bene o male diciamo delle multinazionali, in questo caso la sensibilità dell'ambiente sulle multinazionali è più evidente. No, poi tra l'altro voglio dire non ci dimentichiamo neanche che le bottiglie di vetro, dicevamo, sì, possono essere riempite per più di 50 volte e certo, farle vivere molto a lungo, ma poi il vetro una volta utilizzato anche così tante volte si può riciclare e quindi insomma è un materiale che davvero ha una vita eterna. Allora, parlavamo di Conegliano Veneto, vedo che però anche altri paesi, per esempio nel sud Italia, hanno abitudini virtuose in questo settore, come per esempio Salerno, ho letto anche di Ancona, qui opero un po' in conflitto di interessi perché è la mia città, quindi insomma vi siete mossi concretamente in questi anni. Sì, assolutamente sì, Salerno tra l'altro è proprio il caso in questo momento, nel senso che è molto virtuoso sia come municipio, per cui in questo caso come tutta la parte amministrativa, ma sia anche proprio sugli operatori del settore, per cui su questo sicuramente dobbiamo darne atto, insomma, per cui anche se di solito quando parliamo di vetro e diciamo beh, ma il vetro va comunque riciclato, come giustamente lei dice, va rottamato, diciamo così, è anche vero però che sia il vetro, che parliamo pure anche di plastica, sono dei prodotti molto svalutati, per cui non pagano più i costi del recupero, Per cui sempre per questo motivo, diciamo, invece che andare, partiamo dal presupposto che andiamo invece che andare a tentare di recuperare quello che buttiamo, cerchiamo di non buttarlo prima sostanzialmente. E infatti, quindi, Presidente, un'ultima considerazione perché la devo salutare. È una risposta, sì, a chi dice che il business è contrario all'ambiente? Prego, scusi, non no, ho... dicevo, è una risposta a chi sostiene che il business è contrario all'ambiente? No, secondo me il business non è contrario all'ambiente e questa è una dimostrazione pratica, per cui anzi, proprio su questo, se c'è determinazione, se vogliamo credersi, e noi ci crediamo, assolutamente può benissimo convivere. Se ci fossero dei sostenitori intenzionati a seguirvi in questa campagna, come possono rintracciarvi? Beh, noi siamo sul nostro sito di Italgrob, per cui in questo caso è facile recuperare qualsiasi... è riferimento a questa campagna che oggi viene presentata a Roma. Grazie Presidente. Italgrob è la federazione italiana dei grossisti e dei distributori di bevande. Grazie a Giuseppe Cuzziolo, buona giornata. Alessandro, eccoci. Allora, scudo fiscale verso la scadenza, oggi c'è uno speciale che esce con il Sole 24 Ore, andremo anche ad indagare nelle novità che sono state emanate dall'Agenzia delle Entrate proprio ieri sera. Ok. Sono le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora le notizie in primo piano: non si placano le polemiche dopo il no svizzero alla costruzione di nuovi minareti. Preoccupazione è stata espressa da Unione Europea e Vaticano, ma ne parliamo tra pochissimo. Sono da ieri in Italia, in carcere a Milano, due presunti terroristi tunisini che erano rinchiusi a Guantanamo. I due, secondo l'accusa, reclutavano, finanziavano e inviavano combattenti in Iraq e in Afghanistan. Silvio Berlusconi in visita ieri in Bielorussia, ha lodato il presidente Lukashenko, bollato dalla comunità internazionale come ultimo dittatore d'Europa, critiche dall'opposizione bielorussa e da quella italiana. Infine, tutto come previsto nell'assegnazione del Pallone d'Oro 2009, miglior calciatore dell'anno in Europa è Lionel Messi, campione europeo con il Barcellona. E allora alle 8:33 minuti, eccoci qua con il nostro sondaggio, parliamo di minareti. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. La domanda che vi facciamo è: dovremmo fare come in Svizzera anche in Italia? C'è da dire che per ora state votando in tantissimi, il 66% di voi dice di sì, bisognerebbe fare anche così in Italia. In Svizzera hanno deciso per referendum, in quel paese si può, referendum popolare, di non costruire più minareti. In quel paese ce ne sono 4 per ora, non ce ne saranno più, questo almeno ha deciso il popolo sovrano ha deciso, così è la prima pagina della Padania che io ho qui davanti a me. Mai il minareto faccia ombra al campanile, c'è un campanile che svetta in tutta la sua imponenza in prima pagina. Saluto Matteo Salvini, buongiorno. Salvini, eurodeputato della Lega Nord. C'è da dire, voglio subito entrare con una, visto che parliamo di Lionel Messi, poi siamo milanisti entrambi e quindi voglio fare una bella entrata. Parliamo di Untela. Bella entrata dura di calcio, no? La conversione, che è sta conversione cattolica della Lega, come scrive oggi Marco Alfieri sul Sole. Ma insomma, eravate il partito dei Celti, il partito dei pagano per eccellenza. Adesso, insomma, vi siete convertiti, il crocifisso, ci vuole il crocifisso, il campanile. No, guardi, non ci sono conversioni in corso, io vado purtroppo a messa 2 volte all'anno e me ne dolgo e quindi passerò un po' di tempo in purgatorio e non ci sono questioni religiose aperte, il problema non è religioso ma è sociale e politico, ora sia riguarda quei fatti, quei simboli, quelle usanze, quei modi di vivere che fuori dalle chiese o fuori dalle moschee poi ci vorrebbero far vivere, pensare, mangiare e ragionare in un certo modo. Quindi quando si parla del crocifisso si parla di un simbolo che Benedetto Croce diceva era un simbolo di tutta la nostra gente, cristiana o non cristiana, un simbolo della nostra storia, della nostra tradizione, così come quello islamico non è un problema religioso, perché se da decenni non c'è mai stato nessun problema in Svizzera come in Italia con i valdesi, gli ebrei, i protestanti, i buddisti, gli Hare Krishna e chiunque creda in qualunque Dio, se tutto il mondo ha qualche problemino con l'Islam e l'interpretazione che qualche fanatico ne fa, o è il mondo che ha dei problemi o è l'Islam che pone qualche problema. Ma problema con l'Islam o problema col minareto? Cioè le dà fastidio l'idea di un minareto? Il minareto è un simbolo dal punto di vista della Lega e non solo della Lega, di un'avanzata non religiosa ma politica e sociale che secondo noi deve preoccupare, perché nel nome appunto di Allah e di Maometto qualcuno, questo è il nostro giudizio, la nostra preoccupazione, sta cercando di occupare dei territori, non per pregare ma per decidere come si deve vivere da quelle parti. Il rischio dell'avanzata, io voglio salutare anche la stanza ascoltando il senatore Claudio Micheloni, buongiorno. Buongiorno. Del Partito Democratico, tra l'altro svizzero, è uno dei senatori eletti in, all'estero, in questo caso in Svizzera. Lei ha votato Micheloni al referendum? Sì, ho votato. Ha votato, è rimasto, e come ha votato? Ha votato? Ha perso. C'era tra l'altro molto stupore, nel senso che sì, le previsioni davano il contrario. La Svizzera, che effetto le fa della Svizzera e di questa decisione? Se ne parla in tutto il mondo, da Al Jazeera, ma tutti i giornali del mondo, insomma, parlano di, devo dire, più che altro in termini di preoccupazione, a dire, oddio, che cosa hanno deciso questi in Svizzera. Lei la vive con altrettanta preoccupazione? Mi verrebbe quasi di rispondere al sondaggio, bisogna fare come gli svizzeri, risponderei io di sì, ma non per i minareti, sulle politiche di integrazione. Cioè, quello che è preoccupante in questo voto è che è la prima volta, a mia memoria, non ho avuto tempo di far ricerca, ma scommetterei che è la prima volta che il popolo svizzero accetta una votazione, accoglie in votazione popolare un'iniziativa dell'estrema destra xenofoba, non c'è un altro termine, antistraniera. Negli anni, fine anni 60, inizio anni 70, era l'inizio della mia attività politica, d'altronde ero adolescente, in Svizzera ci sono stati chiamati i cittadini svizzeri a votare contro la popolazione straniera proprio, cioè delle misure, se vi ricordate il nome di un certo politico svizzero, Schwarzenbach, la popolazione svizzera già 40 anni fa ha risposto sempre di no a queste politiche, ha sempre risposto no e no. E che è successo secondo lei questa volta? È un fatto che si sottovaluta, perché al popolo svizzero si è incollato un'etichetta di popolazione xenofobo e razzista, perché regolarmente da forze estremiste e xenofobe sono chiamate a votare per il magnifico sistema della democrazia diretta in Svizzera. E stavolta perché hanno vinto? Ecco, me? È questo che è preoccupante. Questa volta c'è questo sì che nessuno si aspettava. Nessuno se lo aspettava, e probabilmente ci sono almeno due o tre motivi, secondo me. Il fatto che si dava per scontato che veniva rigettata questa ulteriore iniziativa xenofoba come le altre ha portato ad una bassa partecipazione elettorale. D'abitudine, quando c'erano le votazioni xenofobe, la partecipazione era molto più alta, si superava largamente il 75%, questa volta solo il 56% hanno votato. E poi da un anno in Svizzera si vive momenti anche di tensione, di politica interna, per un problema legato a due cittadini svizzeri che sono trattenuti in Libia, sì. E ha creato questo delle tensioni notevoli nella politica. Beh, non si vuole far interna, credere probabilmente che c'è anche un fattore di ricetto. Per due cittadini svizzeri detenuti in Libia, sì, è una vicenda anche abbastanza complicata, non voglio che la gente si è pronunciata su questo. Io non lo so, lei ha detto varie volte votazioni xenofobe, vorrei su questo salutare anche Stefano Allievi, che insegna sociologia all'Università di Padova, è un grande esperto e studioso dell'Islam da anni. Professor Allievi, buongiorno. Buongiorno. Però vengo subito da lei, ma su votazioni xenofoba, vorrei Salvini mi fa un flash su questo. Xenofoba l'ha definita questa votazione e la proposta del referendum più volte il senatore Micheloni. Salvini. Guardi, se chi non la pensa come il politicamente corretto vuole in Svizzera, ma in Italia, in Germania, in Olanda, in Francia, è razzista, xenofobo, becero, ignorante, eccetera, eccetera, eccetera, il solito ritornello, non c'è poco da commentare, qua si sta dando degli xenofobi a uno dei popoli, penso, più aperti, più multireligiosi, più multietnici, più tolleranti del mondo. Quindi il problema è che quando uno dice no all'Islam sembra una bestemmia, secondo me è un no lungimirante. No lungimirante. 800 24 00 24 se volete intervenire. Eccoci al professor Allievi. Professore, lei che studia il problema soprattutto dell'Islam anche in Europa, insomma, perché sappiamo poi ci sono tanti Islam e poi l'Islam di emigrazione, se possiamo dire così, insomma, le tanti milioni di persone islamiche, di fede islamica che vivono nel nostro continente. La preoccupa questa decisione svizzera? La stupisce? Sì e no, nel senso che un vento anti-islamico spira da tempo in tutta Europa pesantemente in diversi paesi, incluso il nostro, e effettivamente è successo questo, che è cambiato tutto, e tutto intendo dire che l'Europa intera è diventata molto più plurale sul piano culturale e religioso. E in qualche modo non solo nessuno se n'è accorto, ma nessuno l'ha spiegato ai cittadini. Persino le costituzioni spesso sul principio un popolo, un territorio, un ordinamento e in molti paesi implicitamente una religione, quando ormai non è più così, non è più così da decenni, e tra l'altro non solo per l'apporto degli immigrati, anche per un cambiamento interno all'Europa. Solo che non è facile, come dire, accettare un cambiamento così o pensare che i cittadini lo accettino senza che nessuno glielo vada a spiegare. Credo che sia una reazione, diciamo così, di vice, di stomaco più che razionale, ma è assai comprensibile da questo punto di vista. Appunto, considero anch'io la Svizzera non più razzista di ieri, cioè no, non lo è, però è certamente un pessimo segnale che viene mandato, e io lo dico non tanto per quel che riguarda l'Islam, anche evidentemente in politica estera, in economia, in finanza, la preoccupazione svizzera in questo momento è molto forte, ma perché si passa il segnale gravissimo invece che le maggioranze decidono sui diritti delle minoranze. In realtà questo referendum è incostituzionale per la Svizzera e per tutta l'Europa. Addirittura, senatore Micheloni, è incostituzionale, dice il professor Allievi, questo referendum. Penso anche io, no, volevo precisare, professore Allievi, io non sto dicendo il contrario. Il popolo svizzero, secondo me, gli è stato incollato un'etichetta xenofoba, è tutto tranne che xenofoba. Sì, ma anche il professor Allievi ha detto non è che da oggi la Svizzera è più razzista, anzi ha detto non lo è. Ma perché è incostituzionale? Voglio dire, tutti ammiriamo lo strumento del referendum per cui in Svizzera si va a votare molto spesso, ma si decide. Adesso si dice che è incostituzionale una volta che si è deciso, senatore. Cioè, la Costituzione svizzera è una Costituzione che garantisce la libertà di culto, che garantisce la libertà di tutte le religioni, c'è la separazione dello Stato, insomma, ci sono tanti motivi e tanti argomenti su questo. Ma io sono preoccupato di questo voto in Svizzera, perché appunto può cambiare un clima che in Svizzera è positivo nei confronti delle politiche di integrazione, perché questo è in gioco con una votazione del genere. Si può cambiare un clima che in Svizzera da diversi anni ha preso una strada positiva, con tanti problemi, intendiamoci bene, non funziona, non è tutto semplice, non è tutto automatico, ci mancherebbe, l'integrazione è la cosa più difficile di questo mondo, però dice fino a ieri andava bene, non ha paura che questo possa cambiare un po' le cose, insomma. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, prima di andare da un paio di ascoltatori, onorevole Salvini, mi dica almeno che quella della croce sulla bandiera è uno scherzo. Dica che abbiamo scherzato. Cioè, non, io capisco, magari sull'onda delle dichiarazioni, magari dichiarazioni anche che possono portare dei voti, però no, è uno scherzo, è vero? Ma guardi, la Lega è bella perché ha tante opinioni, anche religiose e di simboli diversi. Io non sono semplicemente d'accordo con la proposta avanzata dal vice ministro Castelli. Secondo me le bandiere nazionali rimangano lì dove sono, io sarei contento che i crocifissi non venissero tolti là dove ci sono oggi, e non aggiungerei simboli a simboli. Detto questo, poi la mia bandiera, che è quella di Milano e quella della Lombardia, una bella croce rossa su campo bianco già ce l'ha, quindi non mi sento in difetto di nulla, il tricolore lo lascerei stare. Vabbè, perché lei la croce ce l'ha, insomma, per quello. Certo, perché mica c'ha la bandiera il tricolore, no? Ma un tricolore l'ha mai esposto lei su un balcone quando abbiamo vinto i mondiali? Penso, mi ricordano i miei genitori, che penso di aver festeggiato la vittoria dei mondiali dell'82, quando avevo 9 anni, sì. E facevo il campo scout in Trentino. Da allora non penso di aver più tripudiato. Cioè, da nove anni ha capito che il tricolore non... No, mi espongo la bandiera del Milan se mi devo preoccupare di calcio. Allora, Omar da Milano, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sì. A lei e ai suoi interlocutori. Sì, sì, io dico, questo è un argomento che trovo un po' falso, ipocrita e un po' prematuro in Italia, nel senso che noi non abbiamo moschee e pensiamo alle minareti, nel senso che preghiamo qua nei garage, nei posti, e la Lega già, non solo la Lega, già in Italia c'è un provisionismo per la costruzione delle moschee anche senza minareti, nel senso, per questo. Io da una parte a volte trovo, sono soddisfatto di essere musulmano, che faccio rivivere la religione cristiana negli italiani, nel senso che per lottare contro l'Islam si rivolgono al cristianesimo, nel senso, speriamo che anche nelle preghiere praticare la religione magari ci pensano e riflettono magari. Sì. Insomma, la vedo molto insomma, cos'è, deluso dalla decisione svizzera? Come... Allora, a me io, a essere sincero, in Occidente, a essere sincero, io, una cosa che a me non mi sorprende, personalmente non mi sorprende, dopo la macchina propagandista negli ultimi decenni contro l'Islam e i musulmani, nel senso, è ovvio e anche logico che i cittadini hanno paura, magari è stata una macchina magari mostruosa contro l'Islam e i musulmani. Va bene, grazie Omar. Roberto da Roma, che ne pensa? Salve, ma io credo che si stia trasformando, cioè questo voto ci fa capire che un confronto fra culture sta diventando uno scontro, si accetta la logica dello scontro. Sì. Il fondamento della nostra cultura è la tolleranza e il rispetto della libertà di espressione. La religione è una di queste. Quindi, quindi lei le accetterebbe un minareto? Non le sembra sbagliato? Come accetto una moschea, come accetto una qualsiasi, una pagoda, qualsiasi cosa che è l'espressione, purché nel rispetto delle norme urbanistiche o di altro genere, sì, del paese, certo, che le ospita. Però è una forma di espressione, ognuno è libero di esprimersi, e questo è il valore fondante della nostra civiltà. Va bene, grazie Roberto. Professor Allievi, secondo lei c'è il rischio che, come dice anche il nostro due ascoltatori, insomma, che da un confronto sia l'approccio, questo approccio sia foriero di uno scontro più che altro? Diciamo, per un po' di tempo senz'altro sì, ma per c'è un motivo: chi solleva questo problema lo fa precisamente non per risolverlo, ma perché per far crescere lo scontro. Cioè tipo la Lega? Tipo la Lega e tipo il Frans Velang, tipo il British National Party, il Front Nazionale e tanti altri. Cioè l'obiettivo non è risolvere il problema della presenza islamica in Europa, ma usarlo come un'arma per garantirsi consenso elettorale. Da questo punto di vista politicamente fanno benissimo. Dal punto di vista della strategia complessiva e dell'interesse dei paesi, ho qualche dubbio in più. Faccio solo due esempi. Intanto, in Europa ci sono 10.000 sale di preghiera per 18 milioni di musulmani più o meno, e alcune migliaia anche di moschee costruite ad hoc, almeno 2.500, con minareto, cupole, eccetera. Il problema non è quello, il minareto è, come dire, una questione urbanistica che spesso ai musulmani non interessa neanche, viene sollevato come simbolo. Mi sembra difficile dire di no quando si dice di sì dal punto di vista architettonico, le più incredibili mostruosità che hanno un altro nome, però centro commerciale o magari chiesa contemporanea o scuola pubblica, dal punto di vista del problema vero, cioè il rapporto con l'Islam e con le moschee, beh, c'è il primo problema. Uno, è incostituzionale, nel senso che le maggioranze non possono decidere sui diritti delle minoranze, punto, in nessun paese d'Europa, se no non è che andiamo in contraddizione rispetto all'Islam, andiamo in contraddizione con la nostra storia. Ma lei continua a dire che è incostituzionale, ma voglio dire... Sì, no, lo dicono gli svizzeri, io sono a Bruxelles in questo momento, ho parlato a lungo anche settimana scorsa ero in Svizzera con esponenti governativi, eccetera. Il fatto che abbia vinto non significa che poi sarà praticato. io posso fare un referendum e vincerlo contro qualunque cosa, contro gli interisti, contro gli ebrei, contro i gay, contro il PD, contro la Lega, però non è che poi sia praticabile. No, quando si chiudono le moschee in Italia, per esempio, come dire, si creano problemi. Quando i musulmani nei decenni, come stanno già imparando in Europa, ricorreranno dal giudice, come è già successo in molti casi, vinceranno. Allora, su questo, senatore Micheloni, ho 30 secondi per chiudere, ma che vuol dire che c'è un possibile ricorso pendente contro questo referendum che potrebbe annullarne l'esito? Io credo che i problemi più grossi non sono in Svizzera, sono in Europa su questi temi, perché vorrei dare solo questa informazione. La Svizzera ha inserito nella sua Costituzione, prima di questa modifica dei minareti, che l'integrazione dei migranti in Svizzera è compito della Confederazione e hanno politiche di integrazione vere sul territorio, nelle scuole, una politica tutti i giorni la fanno. E io, la mia preoccupazione per la Svizzera è che questo cambia il clima. È l'ondata di quel che potrebbe lavoro arrivare. Lì. Per il resto, i veri problemi li abbiamo qui quando si utilizza il migrante come un oggetto politico e non lo si considera un soggetto politico. È tutto qui il nostro problema. Quindi il problema è, insomma, che, come scrive oggi La Stampa, ci sia una sorta di ondata, che possa coinvolgere anche l'Europa, partendo proprio da lì. Mi devo fermare, grazie a tutti. Tutti da Matteo Salvini al senatore Claudio Micheloni, a Stefano Allievi, professore a Padova. Bisogna dire, per ora sempre il 67% dice sì, bisogna fare come in Svizzera, cioè il no ai minareti. Ci fermiamo, grazie a Laura Marchesi in redazione, Peter Bescapè in regia. Do la linea ad Oscar Giannino e ci sentiamo domani 7:30.